Sì, bene. Io introduco questo ultimo libro, ma voglio parlare un po' in generale dell'attività poetica di Laura Mottone. E voglio andare con ordine. Laura Mottone, come sapete, è un'insegnante. Ci sono molte insegnanti qui? Sì. Allora voglio rovinarmi subito il pubblico, perché sono anch'io insegnante. Che è un'insegnante e una cultrice di poesia, anche contemporaneamente. Le insegnanti che conosco io generalmente non sono molto cultrici di poesia, anche solo a vederle sembrano più cultrici di altre arti, insomma, macelleria. Io le mie colleghe le vedo bene dietro un bancone col coltellaccio, insomma, però sono sfortunato io. Insomma. Ma voglio dire, è una poetessa, ma è anche una studiosa di poesia. E il primo libro che ha scritto, che vi consiglio di vedere, è questo Che cos'è la poesia? E sono 10 interviste che fece a 10 importantissimi poeti italiani del Novecento, alla fine degli anni 90, che venivano tutti a Merano. Insomma, alla fine degli anni 90 Merano fu una specie di capitale della poesia, insomma, da Luzzi, Sanguinetti, Magrelli, Maria Luisa Spaziani, che firma l'introduzione a quest'ultima raccolta. E per esempio in questo libro sono secondo me molto importanti le interviste a Sanguinetti. Sanguinetti parla della poesia come di un'attività legata all'acrobazia, no? Il poeta come funambolo, e anche come buffone, come giullare, no? Memore della famosa affermazione di Palazzeschi: chi sono io, si chiede a Palazzeschi, sono il saltimbanco dell'anima mia. Poi in questo libro è contenuta una delle più belle interviste di Magrelli, Valerio Magrelli, che è stato qui 10 giorni fa, una settimana fa, insomma, che è probabilmente il più importante poeta italiano vivente, no? E qui è molto interessante il discorso che Magrelli fa sul legame tra poesia e malattia, tra poesia e sofferenza, che ritorna anche in questo libro, nell'ultimo libro di Laura. E poi vorrei ricordare l'intervista a un poeta di Viareggio, ma che viveva a Merano da tanti anni, insomma, che morì nel 2001, cioè Antonio Manfredi. Secondo me la poesia di Antonio Manfredi ha avuto una certa influenza anche su quest'ultima raccolta di Laura. Ricordo che Manfredi pubblicò nel 1954 questo volume qui, nello Specchio di Mondadori, quindi nella collana principe della poesia italiana, dove abbiamo pubblicato Ungaretti, Montale e così via, no? E ecco, insomma, se avete occasione di date un'occhiata a questo libro, che secondo me è piuttosto importante. Tra l'altro l'ho visto citato anche in alcuni studi molto, molto seri, molto ponderosi, per esempio in uno dei libri di Andrea Cortellezza, che è un grande studioso di poesia italiana, La fisica del senso, è citato varie volte, ma quindi ha un valore non solo, diciamo, locale, ma nazionale. E il primo libro di poesia di Laura Mottone è questo, Dell'amore e di altri aneurismi, e il secondo è questo qui, Acufeni nel cuore. Ecco, se noi li mettiamo vicini, i due titoli, cosa vediamo? Vediamo che ci sono in tutte e due parole tecniche tratte dal linguaggio settoriale della medicina. Tra l'altro sono due patologie, no? Aneurismi e acufeni, di diversa rilevanza, ma tutte e due patologie. E convivono tutte e due queste parole con due parole invece semplicissime, molto usuali, no? La parola cuore e amore. Tra l'altro per Saba la rima cuore-amore era la rima fondamentale della poesia italiana. Ecco, questo lo trovo significativo, no? Due termini tecnici che convivono con due termini così semplici, così usuali, no? Come dire, sono due raccolte in cui ci sono questi due momenti, da un lato l'effusione del sentimento più spontaneo, più immediato, e dall'altra la cultura, diciamo, anche specialistica. Acufeni, penso che Laura Montone non l'avrebbe messo nel titolo se non ci fosse stato nell'83 per la famosa raccolta Fosfeni di Andrea Zanzotto, anche se lei dice che non le piace Zanzotto, comunque non lo coltiva molto, ma quello non vuol dire, è nell'aria, insomma. E vorrei, proprio per darmi un'idea di com'è questa, leggervi dalle vecchie raccolte, le leggo io, dalla nuova leggerà solo lei naturalmente. Voglio leggervi una poesia che a me piace molto, dal primo volume, dell'amore e gli altri neurismi, ed è questa. Oggi ti ho sentito come l'albume sente il cuore, con la stessa molle, elastica, viscosa vicinanza. Quasi che uno non fosse mai senza l'altra, e nella confusione dei sensi ti ho ritrovato. Adesso voglio leggervi un'altra poesia molto bella dalla seconda raccolta, Acufeni del cuore. Io viaggio da sola, l'autostrada la mia via, sono la macchina fotografica della mia memoria, osservo i dettagli, l'impermanenza delle cose. Ecco, invece, in quest'ultima raccolta, se guardiamo solo il titolo, non troviamo più la compresenza di un termine tecnico, specialistico e di un termine usuale. Troviamo due parole apparentemente semplicissime, sabbia e neve. Dico apparentemente perché in realtà sono due parole infinite, no? Se voi pensate, quanti granelli ci sono in una distesa di sabbia, o quanti cristalli di ghiaccio formano una distesa di neve. Quindi un'apparente semplicità. Poi c'è questo come, c'è questa comparazione, ma manca il termine a cui si riferisce, no? Qual è quello che si chiamava il terzo in comparazionis? Non si sa. Probabilmente lo deve dire il lettore dopo aver letto il libro. Quindi io vedo in questo anche una volontà di semplicità, di non complicare il discorso poetico con la presenza di termini specialistici, di termini tecnici. C'è anche in questa raccolta, quando la leggerete, vedrete una volta almeno un termine tecnico che è un marrobbio, termine tipico, credo, della Sicilia, no? È una specie di piccolo tsunami, ma anche tsunami era un termine che non si usava, poi dopo il 2004 è diventato usuale. E io ho visto proprio questo in questa raccolta, una specie di impedimento della voce, no? La conquista di una nuova semplicità. E ho trovato, naturalmente a me le sue poesie piacciono, io sto dicendo tutte cose che penso, non come avviene in altre presentazioni dove si vede che il presentatore è un ruffianone falso. Io credo fermamente in queste cose. E ho visto questo, insomma, un impedimento della voce, fino a volte al limite dell'essere disarmati, soprattutto nella seconda sezione, perché è fatta in due sezioni, la prima che dà il titolo alla raccolta, come sabbia, come neve, e la seconda invece, poesia del silenzio o dei desideri rimasti. Ecco, qual è il tema della prima sezione? È proprio questo della compresenza di paesaggio montano e di paesaggio marino, e della loro continua metamorfosi. Ed è per questo che io ho portato questo volume di Manfredi. E anche nell'intervista che diede a Laura nel 97, Manfredi diceva che lui via Regino cercava il mare, anche lì, a Merano, no? E il tema di buona parte di queste poesie del 54 di Antonio Manfredi è questo continuo passaggio, questa continua metamorfosi tra mare e montagna. Io voglio leggervi solo quattro versi di Manfredi, dalla terza poesia di questa raccolta. Sempre luci e montagne in ondulanti valli fanno del sole ribelle un intimo mare. Ma è un tema cardine che ritorna anche nell'ultima raccolta di Manfredi, Itinera, sulla quale proprio lo intervistò Laura nel 1997, quindi una costante tematica. Ecco, e c'è Questa costante tematica mi pare di individuare nella prima sezione di questo volume. Poi ci sono dei passi che mi ricordano un po' Saffo, la poetessa che guarda la luna, il senso di isolamento notturno, no? Del resto, acufeni, quei rumori continui che si sentono nelle orecchie, ricordava anche questo Saffo, il famoso frammento che è contenuto nel Sublime. A un certo punto dice: mi rombano le orecchie, no? La reazione dell'innamorata di fronte all'oggetto d'amore. Tra le altre cose c'è anche questo rombo continuo nelle orecchie. La seconda sezione è invece una sezione dominata dal tema luttuoso, insomma la morte del padre, la sofferenza, e qui chiunque abbia fatto questa esperienza, insomma, di accompagnare i propri genitori alla morte, si ritrova. Per esempio in quella c'è una poesia molto bella dove il padre diventa un bambino, no? Tutti noi abbiamo visto i nostri genitori, almeno quelli che li hanno accompagnati alla morte, ritornare all'infanzia, no? E il figlio diventa il padre del proprio padre, o, insomma, si capovolge il ruolo genitoriale. E c'è una famosa poesia di Giorgio Caproni dedicata proprio al figlio, dove lui immagina questa scena e gli dice: diventa tu mio padre, no? E si ritrova anche qui. E naturalmente questa seconda sezione è una sezione, insomma, in cui forse, diciamo, l'aspetto letterario potrebbe anche passare in secondo ordine, insomma, è proprio un'espressione di dolore, di sofferenza. E finisco, non voglio parlare troppo, voglio lasciare la parola a Laura. Due parole sulla prefatrice e anche sui vari montalismi che ci sono in questa raccolta. Voi tutti sapete, se non sapete lo dico io, che Maria Luisa Spaziani viene definita la musa ispiratrice di Montale. E diciamo le cose come stanno: era l'amante di Montale. Montale aveva, c'è anche una storiella, se volete ve la dico. Montale era pigionante quando visse a Firenze presso un famoso critico d'arte che si chiamava Matteo Marangoni, che era sposato con una donna che si chiamava Drusilla Tanzi, Drusilla come la terza moglie di Augusto. E il buon Montale, per ringraziare, insomma, il Marangoni che lo ospitava a poco prezzo, scappò con la moglie, con la Drusilla. E Drusilla, che poi nelle poesie è sempre stata chiamata Mosca, Montale chiamava le donne sempre con nomi di animali, ma anche Sapa, no? C'è la famosa poesia alla moglie, dice: tu sei come una gravida giovenca, tu sei come una pecchia, un'ape, eccetera eccetera. E poi dopo però conobbe Maria Luisa Spaziani, che era sposata al famoso storico delle religioni Elemir Zolla, che aiutò Montale nella traduzione dell'Amleto. Infatti c'è una, se voi vedete la traduzione dell'Amleto di Montale, Montale ringrazia Elemir Zolla, che era anche un andista, insegnava letteratura inglese, e anche a lui, per ricompensare l'aiuto, gli fregò la moglie Maria Luisa Spaziani, che è diventata nella bufera, nella sesta penultima sezione della bufera, la volpe, no? Mia volpe. C'è una poesia che si intitola Da un lago svizzero, dove se voi leggete i versi in verticale, quindi le prime lettere di universo, la figura che si chiama acrostico, trovate proprio il nome Maria Luisa Spaziani. Questo Mia volpe è anche una citazione, perché c'era un poeta, così lo ricordiamo, un grande poeta francese di cui oggi non parla più nessuno, René Char, che la sua donna la chiamava Marenard, la mia volpe, in una raccolta che precede Feuille d'Hypnos, che precede la bufera. E io non credo che sia casuale che Laura Montone si sia fatta fare la prefazione da Maria Luisa Spaziani, perché ci sono molti montalismi in questo libro. Innanzitutto c'è una strofetta iniziale, una piccola poesia iniziale di due brevi strofette in corsivo, come, no, la prima poesia in corsivo era una tradizione montaliana, c'è negli ossi di seppia, c'è nelle occasioni. E qui, che è anche un dialogo con un'ombra, questa breve poesia, che è anche molto bella, c'è questo tu mi sia luce nell'oscurità, no? Questa luce in tenebra, come in una famosa poesia di Montale, come in Eastbourne. molto spiccato nella seconda sezione, dove parla della, eccola qua, la resistenza delle trote ferme controcorrente, e questa ricorda ovviamente l'anguilla, no, che nuota controcorrente, ecco, questa resistenza della natura, resistenza contro tutto della vita animale, no, che poi alla fine si afferma. Ecco, a me sembra di aver parlato anche troppo, e adesso lascio la parola a Laura che ci leggerà alcune sue poesie. E secondo me è una vera poetessa, non è una poetessa dilettante né una poetessa della domenica, e sono contento che sia arrivato al famoso terzo libro, che è sempre più importante per un autore. Grazie. Grazie Alessandro, penso che insomma, molte delle cose che tu hai detto non le merito, nel senso che a volte le cose accadono anche senza che noi ci rendiamo conto, no? Cioè questi richiami, queste eco, sicuramente risuonano da letture, da, come dire, esperienze appunto anche di incontro con i poeti, però sono cose che accadono senza che noi ci rendiamo conto, insomma, sicuramente non sono, come dire, derivazioni volute. E è interessante perché quando si parla di poesia, cioè, è bene parlare di tanti poeti, no? Non solo di un poeta. E stasera già Alessandro, insomma, ha iniziato questo percorso, no? Cioè non parlare solo di me, ma parlare di tanti poeti, perché leggere poesia significa appunto entrare in un mondo in cui appunto ci si richiama continuamente. È interessante, Magrelli ha pubblicato, è uno dei miei poeti preferiti, ha pubblicato questo piccolo abbecedario di cui ha parlato mercoledì anche alla presentazione, e in questo abbecedario definisce alcune parole chiave in modo molto così originale. L'ho fatto anche ascoltare ai ragazzi in classe ed è molto piaciuto. E quando parla delle figure retoriche, dice che le figure retoriche sono come delle costellazioni, e quando noi leggendo una poesia riusciamo a individuare le figure retoriche, è come la stessa sensazione che proviamo quando guardiamo il cielo e riconosciamo una costellazione. E questa metafora mi è piaciuta molto, e credo che sia proprio così, cioè più leggiamo poesia più ci si squaderna un universo di fronte a noi, e quindi anche usare il linguaggio in un certo modo ci aiuta a cogliere sempre di più la profondità del linguaggio. Anche la scelta delle parole, la scelta dei titoli sicuramente ha a che fare con questa profondità. Questo titolo dell'ultima raccolta secondo me ha a che fare con l'assenza, con il tempo e con l'assenza. Quindi, come scrivo nella nota a quest'ultima raccolta, la seconda parte ha spinto, la seconda sezione della raccolta ha spinto alla pubblicazione della prima, e quindi è sull'onda, diciamo così, metafora, sull'onda del tema dell'assenza che ho deciso di pubblicare anche le prime poesie. E un'altra cosa che Magrelli ha detto mercoledì e che mi ha molto colpito è che quando si scrive poesia non si sa perché si scrive, e non lo si fa perché si vuole, come dire, costruire una poetica sulla carta, ma mentre si scrive si scopre qualcosa di sé, e questo spero, come dire, che accada anche a voi mentre ascoltate qualche testo. Sentire la consistenza e l'attrito è movimento e leggerezza insieme, un equilibrio sospeso per ogni stagione della vita, forse più appropriata alla maturità che di te ricorda la canizie. Le montagne, insoliti faraglioni imbiancati, la neve, quando scende la sera, sembra un manto di mare bianco-azzurro, manca il turbinio che agita la rete mossa delle onde. Cosa ci sarà sotto la neve? La permanenza di cristalli, di ghiaccio, sabbia sulla superficie cangiante, un mare calmo di notte, si trasforma in luccichio alternato, uno spolverio infinito di piccole stelle del mattino. Foglia tra foglie, oro, giallo, rosso. Mi rifletto in quel lento sfiorire che è ciclo e vita. Foglie d'acero d'autunno, petali di ciliegi. Un giardino giapponese e tutta la transitorietà in un soffio di vento. La mia anima è rossa e grigia la malinconia. Cammino i giorni esauriti nel dare, ma desidero anch'io vita e calore. Ho bisogno di nuovo, filigrana di incontri. Incantamenti e non disincanti si affrontano in me oggi. Domani saprò che tutto deve ancora succedere. Oro filato di una vita che esca dal sogno. Mi inargento, sì, ma non sbiadisco. In un'anfora risuonano echi lontani dentro me. Rimango sola ad ascoltare. Il suicidio deve essere questo, il silenzio muto intorno e dentro. Comunque la mia vita mi sarà cara, anche quando sarà finita. Ma oggi sono più i pensieri rami ad agitarsi dentro di me, mentre fioriscono baci coperta. Mi immergo di blu, quasi a dimenticarmi, senza emozioni, in attesa di vivere. Invece mi sento accolta dal ventre profondo, avvolta, viva. In un abbraccio così mi sento grata al cielo. Mi sveglio e osservo la luna di notte per non sentirmi sola. La stessa luna di cui tu sembravi innamorato mentre io mi perdevo nei suoi crateri alla ricerca di non so più quale parola. E all'improvviso un treno, il suo sbuffare, mi porta via da te, malgrado me, ad attendere chissà quali altri segnali per ricaderci ancora. Percorro la notte mentre stai scomparendo, tu che volevi rimanere per sempre. Mi accorgo che mi manchi, alta e bassa marea del desiderio. È con te che mi sono sentita vera, con te quello che avrei sempre dovuto essere da quei tramonti primaverili. Per te, mio corpo invecchiato, mia anima maturata, mio seme ancora chiuso. Questa è la prima sezione. Ecco, non so se avete notato come ci siano queste rime in questa, nella penultima poesia che ha letto Laura. Mi sveglio, osservo la luna di notte per non sentirmi sola, che poi rima con non so più quale parola, ad attendere chissà quali altri segnali, terz'ultimo e penultimo verso della seconda strofa. Poi c'è anche questa rima te, me, cioè, è una queste rime, questa ricerca di musicalità che non c'era, insomma, nelle prime due raccolte. come se la sofferenza in qualche modo producesse una specie di cantabilità, che sembrerebbe il contrario, ma di solito quando uno soffre, quando uno patisce, la voce si dovrebbe appesantire, dovrebbero subentrare dei toni cupi, invece qui mi sembra che ci sia una cantabilità che nasce dal dolore, insomma, che a me così vagamente, visto che facciamo un po' di citazioni, ricorda ancora Caproni, l'ultimo Caproni, dal muro della terra in poi. E non so se c'è qualche domanda. Ci sono delle domande su questa, la seconda sezione, prima della seconda sezione, qualche pensieri, rami e baci coperta. Qui c'è una cosa interessante, sì. La parola carne, sì. Qui è interessante, mi è capitato di comprare questo libro perché l'ho visto in libreria e in copertina c'è proprio Parola Ramo, c'è questa poetessa di Firenze del 70, Elisabeth Biagini, che non conoscevo, che pubblica questa raccolta da una crepa e usa la stessa espressione, Parola Ramo, e questo mi ha molto stupito, no? Perché senza conoscere abbiamo usato tutte e due un'espressione simile. Io ho usato la parola pensieri, rami, e lei Parola Ramo, e come dire, questa tecnica di associare due immagini per analogia, due immagini che sono sostanzialmente lontane ma che in qualche modo hanno un legame. E penso che sia, come dire, appunto la magia della poesia, no? Che ci fa respirare, ci fa sentire delle cose simili, per cui lontanissime, senza conoscersi, in contesti completamente diversi, però appunto abbiamo avuto intuizioni simili, no? In realtà lei qui parte da versi di Celan e della Dickinson, e proprio sulla scia di questi costruisce questa immagine, perché proprio Celan usa l'immagine mit Augen Schere, con il trattino. Esatto. Però forse qualcuno potrebbe dire, Heidegger potrebbe dire che è il linguaggio della poesia che parla attraverso di noi, o appunto lo spirito del tempo, però è sicuramente interessante, no? Che ci siano queste consonanze. Se volete leggo qualche testo della seconda sezione e poi magari diciamo qualcos'altro. È arrivato il tempo dell'assenza, quando ciò che non c'è è più importante di ciò che è. L'arroganza delle parole si alimenta del suo stesso dire, e l'assenza di quei gesti, anche quotidiani, atterrisce dentro, togliendo anche l'ultima flebile energia vitale. La notte, quel corpo esile urla la sua presenza al mondo. Il respiro affannato, cavernoso, richiama l'alterno andamento delle maree in un attaccamento alla vita che è quasi insopportabile. Io, vigile con tutti i sensi, mi sento persa, esausta ad ogni rumore, con il corpo in una bolla. A ricucire ricordi e parole, come se fossero di materiale refrattario, molecole di segno opposto che si respingono. Non trovo tessere nel mosaico del cuore. Manca qualcosa, il tempo, irreparabile, l'assenza di un profilo, le mani, il silenzio che amo e mi risponde vuoto. La neve, anche qui, lascia spazio al ricordo, al rimpianto, quella neve che non vede più, che non bagna più le sue guance arrossate, quella neve che non ode più cadere con suoni attutiti, quella neve che respiro ancora avvolta nelle coperte, a letto, e mi trafigge con milioni di minuscoli spilli. Così fragile, Mi prendevo cura di te per uno strano corso del destino, tu diventato mio figlio ed io ancora troppo piccola per sostenerlo. Ciò che il destino ha unito, il destino divide. Ora io, carne della tua carne, sono qui, respiro, tu sei dappertutto. Accetto il vuoto, da giorni lo sento dentro me. Mi acquieta contro il tempo che scorre, contro i giorni tutti uguali. Solo il vuoto può riempirsi. Accettare l'assenza per vivere non rassegnata, intima certezza di futura realizzazione, come un guerriglio sa della sua nuce. Mi abbandono al dolore, assecondo con il respiro il movimento, seguo l'onda, mi tuffo, ci entro dentro, senza dolore, col corpo capisco. Stendo l'anima al vento e la lascio pregare, per chi non c'è più, per chi non c'è ancora, per noi che non ci saremo, un eterno pensiero in movimento, oh Dio, sopra le fluttuanti chiome delle onde, con il vento come compagno, e mi abbandono morbida alla sabbia, partecipe con ogni cellula al mistero. Anestetizzo il cuore con il desiderio di storie e mi accorgo che lentamente sono montagna, acqua, radice, battito d'ali d'un moscerino, occhio di cerbiatto, respiro di bambino, sillaba di parola, atomo impercettibile di energia che ritorna, suono primordiale, silenzio. Sarò come lo scoglio che sempre accoglie l'onda e, superata la tempesta, alla fine resta. Se qualcuno vuole fare qualche domanda. Sì, è un po' difficile, penso che ci sia tanta autobiografia nelle sue poesie, perché è difficile seguire tutto, non conoscendo cosa è, perché posso portare sì, un po' il microfono, prego. Così magari anche io. Non si sentiva nulla. Dottoressa, sicuramente c'è tanta autobiografia in queste sue poesie e qualche avvenimento ce lo racconta che l'ha ispirata a scriverle. Beh, come abbiamo detto prima, la seconda sezione appunto riguarda la morte di mio padre e quindi il tema dell'assenza e dell'elaborazione del lutto, per cui sicuramente c'è qualcosa che, come dire, riguarda la mia autobiografia, però penso che nella poesia appunto rientrino molto spesso esperienze che tutti noi facciamo, no? E la grandezza della poesia forse è il fatto che molte persone si possano riconoscere nelle stesse sensazioni anche se vivono esperienze completamente diverse, no? Cioè sensazioni simili per esperienze vissute in contesti completamente diversi, e se risuona qualcosa dentro di noi è perché appunto c'è quella particella di universale che forse è dentro in questi testi o in alcuni testi, nella poesia in generale. E poi è difficile appunto spiegare, io non credo che si possa spiegare ogni singola, anzi io penso, anche poi magari chiediamo a Alessandro cosa ne pensa, ma io non sono dell'idea di spiegare la poesia attraverso la biografia. È sicuramente vero che quello che ci accade ci forgia, ci coinvolge e condiziona anche il nostro modo di scrivere, però penso che non si esaurisca tutto nella biografia, no? Credo che quello che è occasione che ha fatto scaturire, che ha fatto nascere quel verso. A me non interessa sapere perché quel poeta ha scritto quel verso, a me interessa più, a me come persona, come cultrice di poesia, come amante della poesia, mi interessa più lasciarmi avvolgere dal verso, no? Vedere quello che mi dice, quello che ha da dire, indipendentemente dal contesto. Ogni vita, ogni lo dico sempre anche ai ragazzi in classe, ogni vita vista con una lente di ingrandimento, cioè è incredibile, no? Ci sono un sacco di fortune, sfortune, però questo aspetto così legato alla curiosità quasi morbosa di scoprire, no? Singoli dettagli, a me non appartiene, insomma, nemmeno quando leggo, quando studio, insomma, poesia. Qualche evento sicuramente interessante, ma non ogni singolo dettaglio per spiegare quel verso. Poi è chiaro che la vita è determinata, cioè Volpe sicuramente, la Spaziani è stata sicuramente determinata dall'incontro con Montale, però sapere quanto si sono visti, che cosa hanno fatto, che cosa è successo, a me interessa meno questo aspetto. Non so, cosa ne pensi tu? Lo so che tu pensi diversamente. No, io penso che questo è un tema sempre dibattuto, no? Quanto conta la biografia e quanto non conta. C'era il famoso critico francese, il più grande critico dell'Ottocento, si chiamava Saint-Beuve, che diceva che l'autore bisogna conoscere proprio l'uomo, bisogna conoscere quello che mangia, come si veste, chi frequenta, no? E invece il grande scrittore Proust, che non aveva mai visto Saint-Beuve e che è nato dopo la morte, odiava questo metodo, tant'è vero che ha scritto un libro, cioè ha iniziato a scriverlo contro Saint-Beuve per dire che lo scrittore non conta nulla, no? La biografia non conta nulla. Bisogna dire che Saint-Beuve viveva e conosceva personalmente tantissimi grandi scrittori, per esempio era amico di Baudelaire, che però non ha mai capito niente di Baudelaire, no? Diceva è un buon ragazzo, un buon garçon, ma la poesia di Baudelaire non l'ha mai capita. Viveva, ha conosciuto Flaubert, Stendhal e non li apprezzava, no? Quindi uno si chiede, ma questo metodo biografico non funziona? Essendo un insegnante, io so che agli studenti piace tantissimo conoscere dettagli della vita degli scrittori, sapere che Pascoli era un alcolizzato, che D'Annunzio era un cocainomane, che Foscolo si è rovinato al gioco, questo interessa, no? Però naturalmente, effettivamente, come dice Laura, non è che abbia poi dei riflessi immediati sulla poesia, tant'è vero che noi possiamo apprezzare tantissimo scrittori di cui non sappiamo niente, no? Noi non sappiamo niente di Petronio, eppure il libro, il satirico, è un bellissimo libro, mi piace. Qui c'è sempre questa cosa, no? Quanto conta o quanto non conta. Sì, se posso aggiungere due riferimenti. Italo Calvino scriveva a una giornalista che lo stava intervistando: dati biografici, io sono ancora di quelli che credono con Croce che di un autore contano solo le opere, quando contano, naturalmente. Perciò dati biografici non ne do, o li do falsi, o comunque cerco sempre di cambiarli da una volta all'altra. Mi chieda pure quel che vuole sapere e glielo dirò, ma non gli dirò mai la verità, di questo può star sicura. E Manganelli scriveva che la biografia non esiste, che è certamente vero che noi siamo nati, è certamente vero che ci accadono delle cose, però tutto questo non descrive nessuna storia di nessuno. Noi non abbiamo delle vite da raccontare, noi abbiamo una struttura di fondo che assomiglia alla struttura del tappeto. Diciamo che noi leggiamo costantemente la nostra vita dalla parte rovesciata del tappeto. La parte rovesciata porta tutti gli indizi del disegno, ma il disegno è riconoscibile. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Mi piacerebbe sapere se nella giornata di una persona come lei, che avverte echi, risonanze, realtà, diciamo, immateriali, se c'è un'ora che intenerisce il cuore al poeta c'è appunto più volentieri a mettersi a tavolino e a comporre, se è legata alla pausa, al riposo, se invece è legata più alla percezione della realtà esteriore. Allora, rispondo con quello che ci ha detto Magrelli mercoledì. Secondo me non esiste un'ora precisa, no, del giorno in cui come dire, più facilmente si è ispirati a scrivere poesia. Cioè, Magrelli rinnegava questo termine ispirazione, rinnegava il tramonto, i gabbiani, cioè tutto ciò che ha a che fare con il poetichese, questa idea. E, sì, credo che non sia questo. A volte vengono in mente delle immagini o delle sensazioni mentre si guida, mentre si dorme, ci si sveglia. Non credo che esista un'ora del giorno particolare in cui si scrive. Penso che sia sempre un dialogo con se stessi, no? È un continuo dialogo che, come dire, prosegue, va avanti senza che noi ce ne accorgiamo, no? Fino al momento in cui l'urgenza è tale che lo si mette su carta. Buonasera, io volevo chiedere, l'ispirazione è qualcosa che la porta a scrivere di getto dopo che ha avuto questo momento magari di fantasia o di emozione o di ricordo, oppure c'è poi un lavoro di affinamento, un lavoro sopra, insomma, le parole, una ricerca ulteriore? Grazie. Sì, sicuramente c'è un lavoro poi di, come dire, sedimentazione di quello che si è scritto. Quindi, per esempio, queste poesie, la prima sezione sono poesie di circa 6-7 anni fa, sulle quali poi ho continuato a lavorare, e sicuramente pur partendo da una sensazione che forse è rimasta più chiara, poi il lavoro di Lima riesce a far emergere qualcosa di, come dire, più chiaro, più limpido, come diceva Alessandro, se si riesce, se, come dire, è riuscita questa operazione. E credo che il lavoro sia un lavoro continuo fino al momento in cui si decide che qualcun altro può leggere questi testi, perché all'inizio a me è successo di leggere questi testi già 2 anni fa, alcuni di questi testi, ed erano ancora molto vivi, no? Qualcuno era presente, qualcuna delle persone che sono qui oggi era presente ed erano ancora molto vivi dentro di me, quindi erano come materia incandescente. Nel momento in cui si decide che qualcun altro li può leggere, un editore o qualcuno che in qualche modo può fare un lavoro anche di editing e così via, allora non sono più nostri, allora, come dire, non appartengono più a me i versi che ho scritto. Quindi sì, è vero, sono nati sulla scia di un'emozione, di un'esperienza, di un dato biografico, però appartengono adesso a chi li legge, e chi li legge può trovare o ritrovare qualcosa anche di sé. Come vedi, Laura, il tuo rapporto tra la parte appunto lirica, poetica, e la parte più narrativa o comunque di curatrice di raccolte in prosa o di racconti, o anche come ti ricordo io anche lì al liceo Gandhi, dove sono stato tuo collega anche l'anno scorso, insomma, tutta presa dalle questioni anche proprio professionali, del dure, quotidiane, progetti, prove invalsi, elaborazione temi, elaborazione di materiali didattici, progetto CLIL, mille cose, diciamo proprio di dura tecnica professionale e di didattica della letteratura, delle lingue, eccetera, no? E poi i libri di narrativa, in cui ad esempio la prosa, e questa parte è una parte che si concilia, che riesce a conciliare, o è come una stanza tutta per te, questa della lirica, in cui elabori su un altro piano, su un altro registro, diciamo, tuo personale, lirico, la tua vita, le tue cose poi esterne. Ma io penso che due cose, per me la poesia, come diceva Alessandro, è molto importante, cioè a me piace la poesia, mi piace leggerla, e quindi, come dire, mi dedico anche alla lettura di testi anche di autori contemporanei, quindi è una frequentazione continua della poesia, e ovviamente anche in classe, anche con i ragazzi. E poi è vero che siamo travolti, quindi esistono gli insegnanti che non leggono poesie, esistono anche insegnanti che invece fanno mille cose, e ce ne sono tanti qua dentro, e quindi che vivono con entusiasmo anche il loro lavoro e si impegnano anche nella professione, e questo, come dire, non lascia tanto spazio, no? E sicuramente il romanzo, Alessandro questo lo sa, il romanzo ha bisogno di molto più tempo, la narrativa ha bisogno di molto più tempo. Io non ho mai scritto romanzi, non mi sono mai cimentata, ho scritto qualche racconto ma non di grande spessore, e invece mi piace molto di più appunto il lavoro, diciamo così, saggistico tra virgolette, nel senso l'intervista, la lettura dei testi e la preparazione di saggi, questo mi piace molto di più. È vero che la scuola non ci dà tanto tempo per poter fare anche questo, quindi è difficile, insomma, conciliare le due cose. Dovrei prendere un anno sabbatico forse. Vuoi dire qualcosa su questo? No, c'è ancora la signora. Se posso rubare ancora un momento, visto che lei è anche insegnante, mi incuriosisce molto il fatto, come lei riesce a far amare la poesia ai ragazzi? Ovvero sia, è un lavoro di cuore o è un lavoro di testa? O tutti e due? Sicuramente è un lavoro di tutti e due, sicuramente. Quindi c'è la tecnica, c'è l'analisi, c'è, come dire, questa idea che deve passare, che la poesia non è qualcosa che si improvvisa, non è qualcosa che viene scritto a caso e, come dire, così, appunto, la musa ispiratrice infonde la goccia di saggezza, insomma, no? E quindi analizzare in modo rigoroso anche i testi, così come si analizza un testo scientifico, no? Però non, questo non deve portare a uccidere la poesia, no? Quindi a non come dire, aggiungere troppe come dire, leggi, regole, analisi ad un testo. A volte è anche bello leggere un testo semplicemente senza farne alcuna analisi. A me è successo più di una volta di leggere dei testi che poi non facevano parte nemmeno del nostro programma, e i ragazzi si sono accorti di come, come dire, quel testo pulsasse. Mi è successo per esempio con un testo di Ungaretti sulla morte del figlio, e come quel testo, non me l'hanno detto in quel momento, ma poi io a posteriori ho saputo dai genitori che sono andati a casa a raccontare che quel testo li aveva colpiti in modo particolare. Quindi, come dire, si riescono a trovare anche questi momenti, non sempre facile, però si riescono a trovare anche momenti in cui si può parlare della poesia senza farla in qualche modo distruggere dalla scuola, no? Dall'accademia, dalla scuola. Se non ci sono altri interventi, io vorrei ringraziare anche da parte della casa editrice, soprattutto il pubblico in primo luogo, che è arrivato abbastanza numeroso per essere il 16 di giugno, le scuole ormai chiuse. Poi ovviamente Laura Mautone per averci regalato le poesie e questo libro, e Alessandro Banda per un'introduzione che è andata molto oltre il libro anche. Grazie.